mondo. Il vento fa il suo giro mentre aspetta che piove. Le nuvole nascondono ogni raggio di sole. Il vento fa il suo giro e si sta girando intorno. Se cadono le foglie non sta cadendo il mondo. È un po' che non mi vedi, se mi chiedi com'è andata, io ti dico fra una malannata. Fatta pugni con l'inferno e con i demoni di ieri. Mi hanno rubato tutto, gioie, lacrime e pensieri. Ho fatto viaggi, visitato città. Ho conosciuto gente che non scorderà. Ho bevuto tanto fino a diventare gonfio. Mi son drogato tanto fino a diventare stanco. Ma adesso son pulito, pronto a ritornare sulla strada giusta perché basta scappare. Ma adesso son pulito e mi riprendo me stesso. E non ho sciupato il cuore ma sto in piedi lo stesso. Mi hanno preso in giro, infangato e tradito. È andata come andata, son partito e son tornato. Il vento fa il suo giro mentre aspetto che piove. Il vento fa il suo giro ma dopo torna il sole. Il vento fa il suo giro mentre aspetto che piove. Le nuvole nascondono ogni raggio di sole. Il vento fa il suo giro e mi sta girando intorno. E se cadono le foglie non sta cadendo il mondo. Il vento fa il suo giro mentre aspetto che piove. Le nuvole nascondono ogni raggio di sole. Il vento fa il suo giro e mi sta girando intorno. Se cadono le foglie non sta cadendo il mondo. Non scriverò ti amo su ogni fiocco di neve. Non ti penso, non ha senso adesso stare insieme. Scappata come sempre con la ragione in tasca. Scappata come sempre dando sberle sulla faccia. Eravamo Bonnie e Clyde ma tu eri più forte. Scappata piangendo nel buio della notte. Ma il vento fa il suo giro, gira, gira, gira intorno. Se cadono le foglie non sta cadendo il mondo.